U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Giovanni Lavia. Età? 52 anni. Nato a? Nato a Catania. Eletto in? Collegio Isole. Con quanti voti? 56.498. Partito politico? Nuovo Centrodestra UDC, cioè Area Popolare. Gruppo politico? Partito Popolare Europeo. Segni particolari? Tacanovista. Quante lingue parla? 3. Competenze europee in 10 parole? Agricoltura, ambiente, sostenibilità, tutela dei consumatori, competitività. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'Europa torna a contare morti con gli attacchi terroristici di Bruxelles. Ad oggi c'è una risposta concreta? Una parte della risposta c'è, ed è Europol, ma abbiamo bisogno di farla funzionare meglio. Ci vogliono maggiori scambi di informazioni e poi dobbiamo essere rapidi a approvare ciò che la sinistra sino adesso non ha voluto, cioè il PNR, il registro per gli scambi e per il registro completo delle informazioni sui passeggeri aerei. Così potremo avere più informazioni necessarie a contrastare il terrorismo. Etichettatura a semaforo, cos'è e cosa vuol dire per il Made in Italy agroalimentare? La Gran Bretagna ha deciso di apporre sugli alimenti un'etichettatura e un'etichetta con un semaforino, rosso, giallo e verde. Rosso quando c'è un eccesso di sali, di zuccheri, di grassi, giallo quando il contenuto è medio-alto, verde quando invece ce ne sono pochi. È un modello sbagliato perché non dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'alimento se poi una dieta fa bene o fa male. Tutti i prodotti della dieta mediterranea sarebbero, o buona parte di questi, sarebbero con etichetta con il bollino rosso. In realtà la dieta mediterranea è patrimonio dell'UNESCO e è una grande modello di dieta funzionale e fisiologicamente ottimale. Non dipende quindi dalla caratteristica dell'alimento, ma da come si combinano gli alimenti della dieta, se una dieta è funzionale e fa bene alla salute o meno. Perché quindi una battaglia contro? Perché così penalizziamo solamente alcuni elementi, come possono essere i formaggi, l'olio e altri prodotti tipicamente mediterranei, mentre invece tendiamo a utilizzare di più alcuni prodotti continentali. Non va bene per noi mediterranei. La battaglia più importante sul cambiamento climatico. Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, quei gas che bloccano, tendono a determinare un aumento della temperatura della Terra. Se non blocchiamo queste emissioni, non le riduciamo nel tempo, rischiamo di avere effetti deleteri per la presenza umana sulla Terra e poi rinnovabili e una decarbonizzazione dell'economia nel medio-lungo termine. L'ultimo libro letto. L'autobiografia di Steve Jobs. Cosa voleva fare da piccolo? Volevo fare l'avvocato perché mio padre era un avvocato. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.